America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Detroit. Mario Platero, sono qui nella capitale dell'auto, dove ieri c'è stata una grande giornata, perché è nata la FCA, Fiat Chrysler Automobile, è nata dal punto di vista formale con un piano quinquennale ambiziosissimo. Sentiamo subito alcune delle dichiarazioni che ho raccolto così in ordine sparso prima, poi ho chiacchierato anche con loro, ma sentiamo alcune di queste dichiarazioni di Sergio Marchionne e di John Elkann. Io vorrei solo ribadire che per quello che riguarda la componente italiana di FCA, il piano che è stato annunciato oggi è estremamente positivo e credo che questo sia la dimostrazione anche di come quello che è stato detto in passato e fatto sia coerente con quello che avete avuto la possibilità di vedere oggi. E non c'è dubbio che la forza di questi marchi, senza essere parte di un gruppo come quello che è FCA oggi, che dà la possibilità a questi marchi di potersi sviluppare e soprattutto commercializzare nel mondo, non sarebbe stato possibile. Non ancora abbiamo deciso questo, perché ovviamente ci sono le differenze, specialmente in questo periodo di crescita di spese, di investimenti eccetera, non è che siano estremamente favorevoli. Detto sì questo, il listing ci daremo dei conti che faranno vedere l'equivalenza nei due standard, quindi lì c'è una cosa decisa, ma ne discuteremo per il momento rimaniamo con l'IFRS. È nata, devo dire, formalmente la FCA, Fiat Chrysler Automobile. Siamo all'anno zero, ma la svolta c'è tutta, perché l'Italia ha un'azienda, appunto la FCA, ha un management rappresentato da Sergio Marchionne, un capitale rappresentato da John Elkann, che partecipano a pieno titolo alla battaglia per il mercato globale delle grandi dell'auto. Da oggi a Detroit e a Torino si legge un nuovo libro, non un nuovo capitolo, come ha detto Marchionne ieri durante la presentazione del suo primo piano quinquennale congiunto, un libro che chiude la prima sfida, quella per l'integrazione tecnologica e culturale, e lancia quella per l'espansione, un'espansione che punta alla ricerca di una spiccata identità per le marche, per i nuovi modelli, e questo è uno dei punti innovativi principali, alla crescita in una segmentazione di mercato che si svilupperà molto sull'estero, Cina, India, Sud America in particolare, che vuole moltiplicare impianti di produzione nel mondo investendo oltre 30 miliardi di dollari entro il 2018, di questi 5 in Italia per i nuovi modelli Alfa Romeo, 1 a Melfi dove si produrranno 200.000 Jeep e la 500L, e a Mirafiori dove si produrranno i nuovi SUV Maserati. Alfa, Maserati, Ferrari resteranno autonome, Alfieri del lusso, perché c'è anche la decisione di entrare in modo determinato nel mercato delle auto di lusso. Per il resto continueranno ad esserci scambi tecnologici e produttivi per aumentare i volumi e tenere costi sotto controllo, con un obiettivo: raggiungere un livello di 7 milioni di veicoli venduti entro il 2018 contro i 4,4 circa del 2013. Marchionne ha spiegato che perché un'azienda possa essere davvero produttiva, possa davvero competere nell'economia globale, deve raggiungere un livello di almeno 6 milioni di vetture prodotte. Sergio Marchionne, che devo dire in chiusura del suo intervento ieri, si è commosso pensando a quello che hanno fatto le maestranze qui a Detroit, ma anche in Italia, pensando alla lettera che ha ricevuto da una ragazza che chiedeva di poter ricevere una borsa di studio per continuare gli studi all'università. Un Marchionne che ha dato anche un messaggio severo sul capitalismo che punta troppo sui bilanci, sui risultati trimestrali e forse troppo poco su quello che deve essere anche il ruolo sociale di un'azienda che funziona. E dunque sentiamo Sergio Marchionne. Ieri è stata una giornata storica, ha detto, perché? Perché finalmente abbiamo risolto e delineato il futuro sia della Fiat della Chrysler. L'abbiamo fatto a livello internazionale, abbiamo un piano di sviluppo di tutti i continenti, quindi sono estremamente soddisfatto. Un lavoro di chiarezza, abbiamo ripulito i marchi, stabilito i volumi, gli obiettivi, grande giornata. Qualcuno dice però che sono obiettivi troppo ambiziosi. E allora, questo va, dice un'espressione che usa il presidente Renzi che a me piace, ce ne faremo una ragione. Non ho ancora capito che significa, però a me piace molto. Una cosa, lei si è commosso a un certo punto oggi. Cosa direbbe la Camusso se la vede commossa? Non lo so. Ma perché si è commossa? Ma io non ho mai visto lei commossa, quindi non posso mettere in relazione le due cose. E l'impatto sulla forza lavoro italiano, lei si è commosso anche parlando della forza lavoro americana, cioè ci sono stati grandi risultati. Ma mi sono commosso anche quando ho parlato di quella italiana, no? C'è della gente straordinaria nel sistema, no, quella gente là, gente da proteggere. Conferma che sta per tutti e cinque gli anni. Così mi dicono. John Elkann, allora si è chiusa una giornata che è così, sul piano simbolico chiude un'epoca e ne lancia una nuova. Cosa avrebbe pensato suo nonno di questa giornata? Sarebbe stato estremamente felice di vedere come la Fiat e i suoi marchi, entrando in un nuovo mondo che questo libro dell'FCA, riescono ad avere una risonanza che non avrebbero potuto avere. E senza questa alleanza questo sarebbe stato possibile? Cioè la Fiat sarebbe quello che potrebbe essere senza questa giornata? Non lo sarebbe stato. Io sono molto felice di far parte di questo nuovo libro e di cominciare con questo capitolo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su media24.com e su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di questa unione formale tra Fiat e Chrysler che d'ora in avanti proseguiranno lungo questa strada. Insieme dunque, come augurio per il futuro di Neil Young, Long May You Run, che tu possa correre a lungo. We've been through some things together, with trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Da Detroit è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.